vostro mattino. Ed eccoci di nuovo, care ascoltatrici, cari ascoltatori, le 7:19 minuti e 20 secondi per questa seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È giovedì 3 dicembre, di solito qua in questo punto facciamo ascoltare un po' le vostre voci. Abbiamo qualche problema stamattina con gli WhatsApp audio, li stiamo ripristinando, però continuate a mandarli, che poi a un certo punto ce la facciamo, a un certo punto ce la facciamo. 349-238-6666, se volete. Siamo anche, come sempre, in diretta su Facebook, andate sulla pagina della nostra trasmissione, sulla pagina di 24 Mattino, cliccate mi piace, così poi vi arriva la notifica, la segnalazione, quando siamo in diretta, e ve lo ricordate per bene, se non avete la possibilità di seguirci ovviamente o in FM o in DAB. Cosa? Beh, c'è qualche ascoltatore che già ci scrive a proposito della questione politica, sul tema del fatto che alla fine tutti voteranno quello che devono votare per mantenere in piedi la maggioranza, perché sono, come ci diceva prima Francesco Specchia, un po' abbarbicati alla poltrona. Vedremo che cosa succederà. Di certo è uno degli elementi che domina la giornata di oggi, è ovviamente la questione politica, ed è ancora una volta, vi confesso che non ce la faccio più, perché ne parliamo come elemento di tensione nel governo e nella maggioranza fin da troppo tempo, ancora una volta sul MES, sul Fondo Salva Stati. In questo caso non si tratta del prendere o meno i soldi del Fondo Salva Stati, ma si tratta del votare la riforma. E poi molti giornali invece decidono di aprire sulle nuove norme anti-Covid. Come vi abbiamo già raccontato anche in GR24, alcune sono state approvate già nella notte dal Consiglio dei Ministri con un decreto legge, nella fattispecie, e sono le norme che prevedono il divieto di spostamento, che è la cosa che sta facendo più discutere, tra comuni il 25, il 26 dicembre e il 1 di gennaio, con annessa protesta di un pezzo tanto della maggioranza, a partire da Italia Viva, quanto dei nostri ascoltatori, in generale dei cittadini italiani, un po' preoccupati, soprattutto quelli che vivono magari in un piccolo comune e hanno la compagna, il fidanzato o la fidanzata che magari abitano proprio nel comune accanto. Come si diceva, molti giornali aprono sulle nuove regole, spostamenti e cenone, ecco le regole, il titolo del quotidiano nazionale, hotel e crociere, no al veglione, ci racconta il Messaggero, l'Italia chiusa per le feste, il titolo del Corriere della Sera, mentre altri si dedicano al vaccino. Anche il Sole 24 Ore apre sulle nuove regole, il governo blinda l'Italia dal 21 dicembre, e racconta anche di questo scontro con la Val d'Aosta. Altri giornali aprono e decidono di titolare sul vaccino. Arrivano i nostri, è il titolo di Avvenire. Londra brucia i tempi e autorizza il vaccino Pfizer-BioNTech. L'Europa dice valuteremo presto ma a fondo. Libero, gli inglesi hanno il vaccino e noi ci teniamo speranza. Il Fatto Quotidiano, ecco il piano italiano, 200 milioni di vaccini. La Verità invece decide di tornare su l'inchiesta, quella partita in realtà da Report e che riguarda il direttore aggiunto dell'OMS Ranieri Guerra, l'italiano dell'OMS Ranieri Guerra, ossia il fatto e l'ipotesi raccontata da Report e smentita dallo stesso Ranieri Guerra che alto funzionario dell'OMS abbia cercato di mascherare il fatto che l'Italia aveva un piano pandemico fermo al 2006. Sono state riportate nei giorni scorsi le mail dello stesso Ranieri Guerra, e La Verità decide di aprire con il pentito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, minacciato perché sbugiardo il governo. L'autore dice pressioni per indurmi ad alterarlo, non volevano che si sapesse che l'esecutivo sul Covid era impreparato, la versione di Ranieri Guerra è falsa, sono pronto a parlare, dice, con i PM di Bergamo. Sulla politica aprono invece il Manifesto, che parla di focolaio amico per la rivolta nella maggioranza sulla linea dura per Natale, e poi ovviamente c'è anche tutta la questione del MES, sul quale secondo la Repubblica il governo trema. Il Giornale si dedica a Davide Casaleggio, un privato ha scritto le manovre di Conte, a parlare l'ex ministro Fioramonti e dell'ex senatrice Fattori. Casaleggio, padrone assoluto, era presente alle riunioni e dettava legge, racconta il giornale. Questi i titoli principali dei quotidiani. Fatemi aprire invece con una storia anche oggi che ha a che fare con la giustizia e ha a che fare con quello che è il più grave incidente ferroviario mai avvenuto negli ultimi 30 anni in Europa, ossia la strage di Viareggio. Lo ricorderete, per chi non se lo ricorda, il riassunto è questo: 29 giugno 2009, sono le 23:48, il treno partito da Trecate deve raggiungere Gricignano in provincia di Caserta, 14 cisterne cariche di GPL. Al treno si rompe una componente, deraglia prima di entrare nella stazione di Viareggio, esplode tutto in sostanza e le vittime sono 32, fra cui 3 bambini. Che cosa succede? Che a 11 anni di distanza il processo, quantomeno il processo d'appello all'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana Mauro Moretti è da rifare. Cosa è successo? È successo che, probabilmente sarà da rifare, perché a richiederlo è esattamente l'accusa. Procuratore generale della Cassazione Pasquale Fimiani ha avanzato la sua richiesta agli ermellini della quarta sezione penale, giudici che entro sabato decideranno se ratificare o meno la condanna a 7 anni che incombe su Moretti, che, lo ricordiamo, ha rinunciato alla prescrizione. Sotto esame è finita la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'Appello di Firenze del 20 giugno 2019, che ha confermato per l'ex amministratore delegato il verdetto di primo grado pronunciato dal Tribunale di Lucca il 31 gennaio 2017. È in appello che Moretti, appunto, ha rinunciato alla prescrizione e non ha usufruito di uno sconto di circa 6 mesi in relazione, appunto, alle accuse di incendio e lesioni colpose gravi e gravissime. C'è la perplessità delle famiglie delle vittime, e però la sostanza è questa: che a 11 anni, 12 anni da quella strage, presumibilmente un pezzo, 11 anni e mezzo, un pezzo di quel processo sarà da rifare. La Stampa, che tra l'altro apre anche La Stampa sul fatto che a Natale non si viaggia, c'è la lite sulle visite ai nonni, vi voglio portare però su Il Buongiorno, che è la rubrica quotidiana di Mattia Feltri, che di cosa ci racconta? Ci racconta del TAP, la Trans Adriatic Pipeline, il gasdotto che l'Azerbaigian rifornisce l'Italia, che dall'Azerbaigian rifornisce l'Italia, che è in funzione da un paio di settimane. Ce ne parla Mattia Feltri perché vi ricordate quanto lungamente ne abbiamo parlato, quanto abbiamo parlato delle proteste che ci furono per l'espianto e il reimpianto degli ulivi? Ebbene, dice Mattia Feltri, non è stata un'impresa indolore, in particolare per la preoccupazione sollevata dalla salute di un migliaio di ulivi radicati nel terreno interessato dai lavori e dalle conseguenti proteste. In questi anni nuovi e vecchi partiti, associazioni ambientaliste, comitati di cittadini hanno denunciato lo scempio, la devastazione, l'apocalisse ecologica, il genocidio, con la caratteristica spericolatezza lessicale dei nostri tempi. Nemmeno l'idea di espiantare gli ulivi e ricoverarli in vivaio placò il furore. Ricordo blitz notturni di squadroni della libertà per sabotare l'opera dei giardinieri. Ricordo una molotov lanciata contro la ditta incaricata dello sradicamento. Ricordo blocchi stradali per ostacolare il trasporto dal campo alle serre. Il sindaco di Melendugno, del quale gli ulivi sono illustri concittadini, spedì una diffida a proseguire la deportazione. La procura di Lecce aprì un'inchiesta per distruzione delle bellezze naturali, terminata con qualche rinvio a giudizio di cui ignoro ulteriori esiti. In prefettura si tennero vertici per mettere in sicurezza 12 ulivi il cui imbasamento era ritardato dall'ostruzionismo degli irriducibili. La regione fece ricorso al TAR del Lazio, il TAR sospese le operazioni, poi le autorizzò. Ma insomma, da un paio di settimane il TAP è in funzione e si è ricominciato a piantare gli ulivi uno a uno esattamente là dove erano. Il gas in bolletta si pagherà circa il 10% in meno e i picchetti sono finiti. Una pausa. Quattro mattino. Ma ci vuole un genio a interpretare questa norma. Il 25 e 26 i ristoranti sono aperti a pranzo, però non posso uscire dal mio comune e non posso vedermi con persone che non sono mie conviventi. Ma scusate, ma con chi vado al ristorante? Io e mia moglie siamo ultra settantenni. Tutte le mattine facciamo 70 km per andare a Brescia e altrettanti la sera per rientrare per accudire i nostri nipoti. E a Natale i nostri nipoti e figli non potrebbero passarlo con noi? L'assurdo! Un Natale senza parenti? Fantastico, ragazzi, fantastico! E va bene, va bene. E, sì, allora, all'ascoltatore di 70 anni con la moglie, io ho il massimo rispetto, devo dire la verità che però in tutta teoria nemmeno quello dovrebbe fare, cioè non dovrebbe nemmeno farsi 70 km ogni giorno per accudire il nipote, per tutta una serie di motivi. Innanzitutto perché siamo, la Lombardia è una regione in zona arancione, prima era in zona rossa, e quindi questo spostamento non lo può fare se non per uno stato di reale necessità. E in secondo luogo perché io non so se i suoi nipoti stanno chiusi in casa tutto il giorno, però se non stanno chiusi in casa tutto il giorno, poi incontrarli per lei può essere un problema. È una segnalazione, gliela metto là, però faccia lei la valutazione. La valutazione che crede. È curioso questo punto sui ristoranti. Evidentemente potremmo andarci solamente con le persone che fanno parte del nostro stretto nucleo familiare. Così è, evidentemente. E poi, ogni tanto qualcuno ce lo scrive, Natale senza parenti. Dai, finalmente Natale senza parenti, senza questi obblighi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, SMS, messaggi su WhatsApp, tutto quello che volete. Prima di andare appunto a tutte le questioni del decreto approvato ieri, e le toccheremo lateralmente perché ormai sapete tutto, l'avete sentito anche in GR24, e magari c'è qualche spigolatura che può essere più interessante, può rappresentare un elemento, uno spunto di riflessione. Vi voglio portare sulla vicenda di Foggia, perché guardate che è veramente inaccettabile che il calcio si riduca in questo modo. I tifosi non mi vogliono più e hanno tentato di bruciarmi. Vado via per salvare i figli. Le parole sono di Federico Gentile, 35 anni, è capitano del Foggia. Non sono tifosi, è pura delinquenza. Federico Gentile, calciatore del Foggia, vittima di un'intimidazione compiuta nella notte tra martedì e mercoledì. La porta d'ingresso della sua casa è stata cosparsa di liquido infiammabile e bruciata. Un atto che arriva dopo una serie di contestazioni da parte di una frangia di tifosi per la mancata cessione del pacchetto azionario all'imprenditore barese Nicola Canonico, ex proprietario del Bisceglie. Non è la prima volta che i calciatori subiscono intimidazioni. Era già capitato dopo il derby Foggia-Lecce del 10 marzo 2019 all'attaccante Pietro Iammello, al centrocampista Massimo Busellato e ai due ex patron Fedele e Franco Sannella. Dice Gentile: mi sento male perché hanno colpito me e la mia famiglia nell'intimità di casa. I figli stanno bene, sono molto piccoli, hanno continuato a dormire, non si sono accorti di nulla. Lui si è svegliato improvvisamente, ha visto le fiamme e il fumo nero che entrava in casa, ha aperto la porta, ha chiesto aiuto un vicino, insieme hanno spento l'incendio con alcuni secchi di acqua e cosa ha deciso alla fine? Alla fine ha deciso, direi anche giustamente, di lasciare la città, e a questo punto lo faccia di corsa, e forse lo facciano proprio tutti i giocatori del Foggia, che sarebbe sano. C'è chi prova a aggirare le regole o a modificarle a suo favore. Partiamo da quelli che provano ad aggirarle: le influencer. Siamo a pagina 11 del Corriere della Sera, che con Elisabetta Andreis dedica un'intera pagina a quello che sta succedendo in particolare a Milano, in quella che chiamiamo staycation, la vacanza per residenti, per notto e cena. È il modo degli alberghi per resistere a un fenomeno di nicchia che prende piede appunto soprattutto a Milano. Milano. Di cosa si tratta? Si tratta che del festeggiare il proprio compleanno prenotando distintamente con degli amici delle stanze di albergo e poi ritrovarsi a cena nello stesso albergo, diffondendo poi, direi quasi scioccamente, le foto sulle proprie stories su Instagram. Ieri, come ha raccontato il sito Giornalettismo, scrive l'Andreis, ha fatto parlare il caso dell'influencer Elisa De Panici. Su 1 milione di follower su Instagram, la ragazza ha celebrato i 28 anni con 10 amici all'elegantissimo The Roof, vista sulla Madonnina. Le sue stories, viste da migliaia di persone, hanno suscitato anche qualche protesta. Abbiamo rispettato le regole, eravamo in 8 su 2 tavoli separati, all'ultimo si è aggiunto qualcuno, ribatte l'amica Mila Suarez, centinaia di migliaia di follower. Avevamo fatto tutto il tampone per il Covid, ci spiace se abbiamo passato un messaggio sbagliato. E il conto della cena, circa 1000 euro, è stato pagato da un cliente abituale dell'albergo, un imprenditore che risiede in Svizzera. Intorno a loro c'erano altri tavoli, 31 persone in tutto. Ieri sera le camere prenotate salivano a 50 su 130 totali. Baldoria fino a 1 di notte. E non è l'unico caso di un fenomeno che evidentemente sta prendendo piede. Chi cerca invece di modificare le regole è la Valle d'Aosta, che sta andando allo scontro col governo, e qua siamo sulla Stampa, pagina 7, con Daniele Mammoliti, che ci fa sapere che appunto il governo, che la Valle d'Aosta sfida il governo e il governo risponde a muso d'oro. Il Consiglio regionale ha approvato una legge che rivendica l'autonomia rispetto ai poteri statali nella gestione dell'emergenza sanitaria. Di fatto la nuova norma scavalca i decreti, consentendo la riapertura di bar, ristoranti, impianti a fune, musei e biblioteche, tutto insomma tranne le scuole di ogni ordine e grado. Oh, è proprio una mania questa dei presidenti di regione, Tutto tranne le scuole di ogni ordine e grado, compresa l'università, per i quali si applica la normativa statale emergenziale in vigore. Quindi si può aggirare tutto tranne la normativa sulla scuola, secondo la Valle d'Aosta. Teniamo chiuso tutto, ma riapriamo bar, ristoranti, qualsiasi cosa. E vabbè, così è. L'approvazione è arrivata grazie alla saldatura tra i gruppi autonomisti e la Lega, ed è prevedibile che su questo fronte arrivi un ricorso, presumibilmente da parte del governo. Cosa ancora dai giornali? Ovviamente c'è tutta la vicenda, torneremo a parlarne tra poco col nostro direttore Fabio Tamburini, c'è tutta la vicenda del MES e del Fondo Salva Stati e della riforma del Fondo Salva Stati, che sta creando una tensione politica all'interno della maggioranza, con la fronda del Movimento 5 Stelle, una fronda del Movimento 5 Stelle che non vuole, che dice no appunto alla riforma del Fondo Salva Stati. Scrive Lina Palmerini sul Sole 24 Ore a pagina 10. Se il 9 dicembre, giorno del voto alle Camere sul Fondo Salva Stati, Conte non avesse più il sostegno della coalizione su un punto rilevante come un trattato europeo, si aprirebbe la crisi. Insomma, non sarebbe un incidente, ma uno strappo profondo equiparabile a una sfiducia. È per questo che si sta cercando di mediare. Ricorda Lina Palmerini che il rischio di una crisi di governo in piena sessione di bilancio, cioè quando si deve dare il via libera alla legge di stabilità, porterebbe all'esercizio provvisorio, e si aprirebbe anche il problema dello scostamento di bilancio previsto in gennaio, con circa 20 miliardi da destinare ai nuovi ristori. Sarebbero altri effetti collaterali dannosi di cui si dovrebbe rispondere agli italiani nel caso di questa crisi. E a proposito di Europa, c'è un po' il seguito della vicenda dell'orgia del deputato Josef Zayer, 59 anni, e vabbè, lo abbiamo raccontato lungamente, beccato in quest'orgia con 25 persone quando invece avrebbe dovuto stare in casa perché il Belgio era in lockdown, il tentativo di fuga dalla grondaia, il tentativo di invocare l'immunità parlamentare, difensore della famiglia tradizionale. E la cosa che ci racconta il Quotidiano Nazionale a pagina 10 dice che l'euroorgia imbarazza Orbán, così il regime censura il festino. Elena Comelli ci fa sapere che sostanzialmente i media ungheresi di questa vicenda non stanno parlando quasi quasi per nulla. Nascondono la notizia del deputato ultracattolico sorpreso durante il coprifuoco. Ci sono state dure reazioni anche dai vertici europei su questa vicenda, e tra l'altro la cosa rischia di avere un impatto politico. Perché? Perché il pur sospeso, il partito di Orbán è aderente al Partito Popolare Europeo, e ieri Donald Tusk, presidente del Partito Popolare Europeo, ha detto: cos'altro dovrebbe fare Fidesz perché tutti voi vediate che semplicemente non si adatta alla nostra famiglia, la famiglia del Partito Popolare Europeo? E vedremo come andranno le cose anche su questo fronte, se ci sarà un'uscita appunto del partito di Orbán dal Partito Popolare Europeo. Certamente non sarà questa la motivazione, ma eventualmente la goccia che fa traboccare il vaso. Oh, vi segnalo, visto che ne abbiamo parlato l'altro giorno di patrimoniale con Frato Ianni, l'economista De Romanis, che è saltato l'emendamento sulla patrimoniale, che voleva introdurre questa patrimoniale. Perché? Perché non aveva copertura. È abbastanza curioso, una tassa senza copertura, però è effettivamente così. È saltato perché è stato dichiarato inammissibile perché non c'era copertura. Perché non c'era copertura, lo abbiamo raccontato, perché di fatto togliendo l'IMU sulla seconda casa, perché si prevedeva questo, togliere l'IMU sulla seconda casa e mettere delle nuove imposte sui patrimoni, e beh, complessivamente l'imposta avrebbe dovuto cubare per coprire tutto una quarantina di miliardi, e 40 miliardi erano ben difficili da reperire con quelle ipotesi messe in campo. Lo racconta bene il manifesto a pagina 5, che racconta anche di destra e renziani che festeggiano, e c'è un'intervista a un responsabile economico di Sinistra Italiana, il quale dice che ha scritto con Nicola Fratoianni il testo e dice: battaglia giusta. È ora di tassare l'1% più ricco. Una pausa. Ed eccoci col nostro direttore anche al Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Fabio, ciao, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno a tutti. Allora, Italia, il governo blinda l'Italia dal 21 dicembre, è il titolo del Sole 24 Ore di oggi, e quindi apertura dedicata a quello che succederà sotto le feste. Lo abbiamo raccontato: nella notte il governo ha approvato un decreto legge, e questo decreto legge prevede appunto che dal 21 dicembre non ci si possa spostare di regione, e il 25 e il 26 e il 1 di gennaio non ci si possa spostare dal proprio comune. Questa alla fine è la scelta dell'esecutivo. Cosa dici? Posso permettermi un moto di stizza a prescindere dai contenuti del provvedimento? Perché? Non se ne può più. Allora, non si capisce per quale ragione al mondo questi decreti debbano essere approvati durante la notte o prefibilmente la domenica sera, meglio se la domenica notte. Passi una volta, passi due volte, passi incredibilmente, oserei dire, la terza volta, ma che ormai sia un'abitudine consolidata di fare questi provvedimenti durante la notte o la domenica sera è ormai diventato, consentitemi, intollerabile. Non c'è una ragione al mondo, non c'è un paese al mondo in cui questo accade. Io darei un consiglio: forse se la notte si dorme e la domenica si riposa, i decreti verrebbero meglio. Ok, benissimo. E sui contenuti, Fabio? I contenuti, il sentiero è stretto. Certamente la pandemia è tutt'altro che passata. Certamente si corre il rischio della terza ondata. Io credo che però bisognerebbe anche esercitare la virtù del buon senso. In particolare mi riferisco all'argomento dei ricongiungimenti tra familiari. Se c'è un nonno che ha 80 anni e sta in Piemonte, forse i nipoti avrebbero il diritto di andarlo a trovare. Quindi certamente la gravità dell'emergenza sanitaria giustifica i provvedimenti d'emergenza, però insomma sempre tenere d'occhio il buon senso. Visto che siamo intorno ai temi di governo, Fabio, come avrai visto si sta addensando nuova tensione intorno alla maggioranza e sempre sullo stesso argomento, il fondo salva stati. Cioè, se non è il tema dell'utilizzo del fondo salva stati, è il tema della riforma del fondo salva stati, della riforma del MES. Nella fattispecie, lo abbiamo raccontato, una cinquantina di parlamentari del Movimento 5 Stelle di fatto si dice pronto a votare contro questa riforma quando ci sarà il voto il 9 dicembre. E là si rischia brutto, perché il governo rischia. Questa è la mattina dei moti di stizza, permettetemi di averne un altro. Anche nel caso del MES non se ne può più, è da mesi che facciamo questo balletto. Ieri il Quirinale ha dato segnali precisi: o così o pomì, tradotto in altri termini, o passa senza troppe storie oppure si tira aria di crisi. E io ritengo che chi in questo momento siede sui banconi del Parlamento ci è attaccato con vina vita e di conseguenza alla fine una qualche ricomposizione verrà trovata. Penso che nessuno dei parlamentari abbia voglia di andare a casa e quindi si daranno da fare e una soluzione in un modo o nell'altro verrà trovata. Ti fanno osservare, Fabio, dice, una volta che lavorano di notte che facciamo, ci lamentiamo pure? Ci lamentiamo perché è un segnale di assoluta, non c'è una ragione, comincino a lavorare bene di giorno. Io sono convinto che se uno comincia a lavorare alle 8 di mattina e finisce alle 5 di mattina del giorno dopo, penso che manchi alla fine la lucidità. Può accadere una volta, due volte, ma se diventa un metodo c'è qualcosa che non funziona. Ascolta Fabio, a centropagina oggi su Sole 24 Ore c'è una foto che racconta di questa battaglia che sta combattendo l'Italia ormai da tempo contro il Nutri-Score. Che cos'è il Nutri-Score? È un'etichetta sui valori nutrizionali e su quanti grassi, quanto può creare problemi in termini di ingrassamento, i grassi e via dicendo all'organismo, ogni singolo cibo. Questa etichetta Nutri-Score che Germania e Francia vorrebbero adottare è un'etichetta che può creare parecchi problemi all'Italia, perché collocherebbe in una fascia, per esempio arancione, l'olio extravergine d'oliva, dato che si va per colori, cosa alla quale ormai siamo abituati, vuol dire una fascia di rischio piuttosto elevata secondo questa etichetta. Oggi scriviamo sul Sole 24 Ore che ciò metterà a rischio il 50% delle esportazioni dei prodotti del Made in Italy alimentare italiani. Penso che sia inaccettabile, pubblichiamo anche una fotografia in prima pagina. Secondo questa etichettatura nuova, le patatine fritte sarebbero molto più virtuosi e l'olio d'oliva extravergine. È chiaro che c'è qualcuno che fa il furbo, io spero proprio che questa operazione, che ha ben altri fini che la tutela della salute nell'alimentazione, non vada in porto. Grazie anche per oggi, per questa settimana, al nostro direttore Fabio Tamburini. Ciao Fabio, buona giornata, giovedì prossimo. Grazie a tutti, compatibilmente. Compatibilmente, ciao. Dentro Roma puoi fare anche 50 km. Negli altri comuni a un chilometro di distanza, anzi ad una via di distanza. C'è una via che divide due o tre comuni. Tra Trigiano e Capurso, via Cesare Battisti. Un lato è Trigiano, l'altro lato è Capurso. Ma stiamo scherzando! E io per andare da mia figlia da Trigiano a Rione Sant'Anna di Bari, sapete che cosa siamo divisi? Dalla tangenziale! Non posso fare 600 metri perché là è un altro comune.